ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo, non si vede più. A chi non ha uno specchio, e comunque non per questo, non ce la fa più. A chi ha lavorato, a chi è stato troppo solo e va sempre più giù. Benvenuti a Dedicato, 21 febbraio 2024. Bene, oggi è la giornata internazionale della lingua madre, che è un argomento molto sentito dallo staff di Dedicato, perché quotidianamente noi abbiamo a che fare con bambini e ragazzi che hanno diverse provenienze, quindi... Scusa. Salve Mascotte. Cos'è la giornata della lingua madre? Allora, intanto lei lo sa benissimo, Mascotte, non faccia la furba, non faccia non la furba. Non è vero. Se vuole lanciare l'argomento va bene, ma lei lo sa perché... Ma non è vero. Ma certo, perché a scuola le sue maestre le hanno addirittura fatto fare delle attività molto belle e interessanti per questa giornata, forse quindi... Forse è vero. Ah, ecco, sì, forse è vero, sì. Forse. Ok, allora, la non giornata... Non ti darò mai ragione. Certo, questo è ovvio. La giornata internazionale della lingua madre è quella giornata in cui si festeggia appunto la lingua madre, e cioè la lingua di provenienza della tua famiglia, nel senso, nel caso tuo parliamo di regioni italiane, perché tuo papà è della provincia di Napoli, la tua mamma è di Bologna, e quindi abbiamo delle regioni italiane, ma ci sono dei bambini che vivono in Italia, sono nati in Italia, che hanno però la i famiglia... I genitori o ad esempio i nonni, i zii, i parenti, che sono tipo di un altro paese, ad esempio il papà è francese e la mamma è... Giapponese. Oppure il papà è marocchino, la mamma è italiana. Per esempio, oppure dall'Africa, dall'India, insomma da tutto il mondo, quindi parliamo proprio della giornata dal appunto... Polo Nord. Esatto, internazionale. Babbo Natale. Internazionale, quindi Babbo Natale potrà essere il nonno di qualcuno. Sì. E quindi questa giornata noi la sentiamo tantissimo perché appunto va a coinvolgere tutti quei bambini e ragazzi anche all'interno degli istituti scolastici con delle attività e dei momenti molto interessanti e di scambio anche con le famiglie, quindi vi racconteremo che cosa succede in alcuni istituti comprensivi della città di Bologna che noi abbiamo contattato e abbiamo chiesto alle maestre direttamente che attività faranno e ve le racconteremo un po'. Tanto Mascotte, io agevolerei il primo brano. Cosa dice Mascotte? I wanna wish on me, crescendo califo, tundunga danga mo, a singali un gabo, andaga fungalo. Grazie Mascotte. Yeah. Safe and clean. The Cure, Close to Me. Ragazzi, abbiamo ballato e suonato tutto il tempo con questo pezzo, fenomenale, grandi Cure. Allora, tornando a noi e alle cose serie, abbiamo il primo intervento di una docente dell'Istituto Comprensivo 5 della Bolognina, quindi quartiere Navile. È un istituto grande, come tutti quelli della Bolognina, perché hanno due scuole dell'infanzia, tre scuole primarie, una scuola secondaria, quindi molti bambini e ragazzi che partecipano alle attività di questo istituto comprensivo. In questo caso abbiamo la voce della maestra Claudia, delle scuole Federzoni, quindi la ringraziamo anticipatamente perché è veramente sempre molto interessante ascoltare quello che gli insegnanti si inventano e riescono a creare insieme alle famiglie e ai bambini. Quindi ascoltiamo cosa succede all'Istituto Comprensivo 5 di Bologna. Allora, ciao Erika. Dunque sì, riguardo alla giornata internazionale della lingua madre, certamente l'IC5, la Scuola Federzoni, come sempre parteciperà con grande impegno, con tante attività. Un esempio classico potranno essere la produzione di cartelloni plurilingue o di documentazione varia che racconta le attività che si fanno in classe, perché il punto è proprio questo: al di là della celebrazione in sé, della scadenza, diciamo, quello che conta davvero è l'attività che si fa quotidianamente nelle classi. L'attività interculturale ha come obiettivo fondamentale quello di valorizzare innanzitutto la ricchezza linguistica di queste classi, che vedono la presenza di talvolta bambini appena arrivati in Italia da altri paesi, ma molto spesso bambini che purtroppo non hanno la cittadinanza italiana, ma che sono nati a Bologna, hanno frequentato a Bologna l'asilo, la scuola dell'infanzia, e parlano a casa però la lingua madre dei genitori, e quindi sono bambini perfettamente bilingui o talvolta addirittura trilingui, e questo determina una situazione di grande competenza e di in realtà grande conoscenza del mondo. E allora questa ricchezza si valorizza nella vita quotidiana in classe, chiedendo ai bambini di insegnare ai compagni delle frasi, delle parole, come si dice tanti auguri, come si canta la canzone in occasione dei compleanni, come si dice grazie, come si dicono i numeri, come si dicono un sacco di cose, le cose che i bambini stessi chiedono di raccontare e di condividere coi compagni. Poi ci sono tanti modi per valorizzare tutto questo, con la produzione ad esempio di cartelloni in tante lingue o attraverso l'arte, attraverso la musica, facendo conoscere i diversi alfabeti o i diversi modi di scrivere. Fondamentale comunque in questi percorsi è anche sempre il coinvolgimento dei genitori. Per esempio in classe nostra, prima delle vacanze di Natale, abbiamo invitato due mamme che si sono prestate con grandissimo slancio, grandissima generosità a fare dei dolcetti marocchini che sono insieme ai bambini e che sono diventati il lavoretto di Natale che poi tutti i bambini hanno portato a casa. E insieme a quello hanno anche raccontato una favola tipica marocchina. E poi questo percorso prosegue, perché in classe nostra inviteremo genitori di varie nazionalità appunto a leggere storie nella propria lingua, con poi naturalmente la traduzione. E qui si apre un altro capitolo, ad esempio fondamentale qui alla Bolognina, la biblioteca Casa di Caula, la biblioteca di quartiere, che ha tutta una sezione di libri dal mondo, di storie per ragazzi e bambini, insomma in tantissime lingue. E infatti alle Federzoni alcuni insegnanti hanno promosso un progetto che si chiama Libri in Viaggio insieme a Casa di Caula, con letture in orario extrascolastico a scuola, proprio con il coinvolgimento dei genitori, per cui per classi parallele, le seconde, le terze, le quarte, le quinte, eccetera, ci sono letture in tantissime lingue con i genitori che vengono invitati, vengono coinvolti in questa attività. Poi la giornata internazionale della lingua madre, il 21 febbraio, sarà l'occasione anche per parlare esplicitamente di questa ricchezza linguistica che c'è nelle classi, e con anche un ruolo di stimolo, ad esempio, della Commissione Intercultura dell'Istituto Comprensivo, o con un altro progetto che si chiama l'Assemblea dei Bambini e delle Bambine. Si andrà per le classi e si vedrà di produrre, insomma, dei materiali. Chiudo con il racconto di un'attività che io amo moltissimo, che faccio in classe mia. Ogni volta che iniziamo la lezione di musica, io in classe ho un djembé, quindi suono un ritmo semplice e tacca tacca tacca ta. Alla fine di questo ritmo ognuno dice un saluto, ciao, e tutti poi tacca tacca tacca ta ripetono ciao. Poi si va a turno e ciascuno deve dire il saluto nella lingua che vuole. E quindi nei primi tempi magari si dice ciao e basta, anche per timidezza. Poi pian pianino ognuno comincia a dire il ciao nella propria lingua madre, o qualche bambino che invece non ha voglia di parlare dirà ciao con la mano, o qualche bambino che vuole fare lo spiritoso le prime volte dirà il ciao che inventa al momento. E pian pianino tutti poi, siccome devono ripetere, poi tutti imparano questi ciao. È la cosa veramente affascinante, bellissima, quando questi ciao in tante lingue vengono imparati da tutti, e poi i bambini iniziano a scambiarseli, per cui il bambino che a casa parla in urdu e inizia a dire ni hao in cinese per salutare, e tutti, insomma, questi saluti vengono scambiati e condivisi da tutti. Thank you. Abbiamo ascoltato i Cranberries con Dreams e torniamo ora alla nostra giornata della lingua madre, che appunto oggi si festeggia in molte delle scuole di Bologna, ma anche a livello nazionale e internazionale, per l'appunto, perché è la giornata internazionale della lingua madre. Quindi speriamo che più persone possibili si avvicinino a questa giornata festeggiandola e creando attività. Ma abbiamo una fanciulla che ovviamente, data l'età, va a scuola, perché è della scuola primaria, e volevo chiederti che cosa avete organizzato per la giornata di oggi a scuola da te, le maestre, i genitori, insomma le famiglie, avete pensato qualcosa, partecipano? Fammi capire che cosa succede in classe tua. Ci sono delle mamme che leggono delle storie nella loro lingua, poi ci sono i loro bambini che le traducono in italiano. E così in marocchino, in egiziano, in tante lingue diverse. Ah, ok. Quindi prima nella lingua originale e poi dopo viene tradotta dal bimbo, dal loro figlio. Esatto. Fantastico. E di solito queste mamme sanno parlare anche l'italiano? Sì, allora, alcune mamme fanno un po' fatica, altre invece sì, sono abbastanza brave a parlarlo. Benissimo, bene, bene, bene. Piano piano si ambientano anche loro nel nostro paese, perché chiaramente non è facile. Sì. Ah. Va bene. Ora continuiamo sempre con un istituto comprensivo che è il 15, quindi sempre quartiere Navile, e come dicevamo prima riguardo all'istituto comprensivo 5, vale anche per l'istituto 15, è molto popolato da giovani ragazzi, perché il Navile è un quartiere grande e multietnico, quindi le classi hanno diverse provenienze. E la scuola primaria Dozza dell'istituto comprensivo 15 ha pensato questa proposta rivolta alle famiglie, che potranno presentare letture, filastrocche, balli, canti, disegni e pitture tipiche della nazione o della regione da cui provengono appunto le famiglie, e che insomma interverranno anche nelle altre classi. Quindi è una attività trasversale tra le classi che coinvolgerà tutta la scuola. Questa cosa permette l'efficacia e rende fattibili gli interventi, è una cosa veramente molto bella, proposta dai docenti della scuola primaria Dozza, e quindi si dà spazio all'organizzazione addirittura settimanale della festa della lingua madre. Per tutta la settimana ci saranno attività ed eventi all'interno della scuola che coinvolgono famiglie, bambini e docenti insieme. Mascotte, visto che parliamo di questa giornata importante, voglio chiedere anche a te, a scuola da te, in classe tua, che cosa succede oggi con le maestre? Avete organizzato qualcosa? Fatto organizzare un po' di frasi che potevamo portare nel nostro dialetto o nella nostra lingua, potevano essere canzoncine, corte, filastrocche, poesie, modi di dire. Ah, ok. Detti popolari e ricette. Ok, quindi voi con le vostre famiglie avete un po' ragionato su questa cosa, no? Sì. Ok, e tu hai portato qualcosa che vuoi farci ascoltare, te la ricordi? Sì! Ah, che cosa... I said Kajata when one of the Turkal Biske Yons di Pijandos. Ah, scusa, che lingua è questa? Questa è bolognese, vuol dire, lo sai che alle 8 viene un nuovo dottore che dice che le unghie dei piedi sono 12? I said che alle 8 viene un nuovo dottore che dice che gli altri di pigliettosi. Ah, complimenti! Quindi sappiamo parlare il dialetto bolognese, mascotte. L'ho imparata ieri. Ah, ecco, bene, bene. Quindi in un giorno hai fatto tutto. Complimenti, bravissima. Dico lenta. I set cagliotta il venno un avdu tur caldis che ions di pigliendos. Che vuol dire tradotto? Lo sai che alle 8 no, viene... No, questo l'abbiamo già detto, mascotte, non ripetiamo sempre. È che... ci sono le parole doppie, no? Set quindi che il set al set vuol dire sia sette. Lo sai hot rimane numero. Ok, nov vuol dire sia nuovo che nove, sì, giusto? Sì, sia nuovo che nove. E poi? 10 vuol dire 10. Caldis, no? Lui dice. Lui dice. Dis si dice sia 10. Dis, 10 e dice. Ok. Ons si dice sia unghie che 11. 11, ok. E poi che se 12, ok, dose 12. Quindi abbiamo questo giochino dei va bene, grazie mascotte, agevoliamo un nuovo brano perché sennò la mascotte va avanti a dirla per un sacco di grazie mascotte. Va bene, ok, niente, non la fermiamo. Un brano musicale. We are the world. We are the children. La scuola primaria Saliceto invece incentra le sue attività per la giornata della lingua madre sul tema che affrontano quest'anno a scuola con i bambini. Il tema è Oltre lo schermo. Quindi ci saranno delle attività dedicate proprio per questa giornata, coinvolgendo i genitori e le famiglie che saranno presenti a scuola nel pomeriggio di oggi, dalle 15 fino all'orario di uscita, quindi insomma alle 16:30 più o meno, e quindi saranno a scuola con i bambini a raccontarsi, a fare delle letture, delle filastrocche, guardare dei film. Insomma, ogni classe avrà delle proposte che coinvolgono direttamente le famiglie con i bambini all'interno della scuola. Anche la scuola primaria Croce Coperta ha delle attività previste per la giornata di oggi. Quindi coinvolgimento delle famiglie anche in questo caso con i bambini, preparando momenti culturali e artistici provenienti dai vari paesi e le regioni ovviamente italiane anche, quindi dialetti, lingue che si mescolano e che giocano insieme nella giornata di oggi. Io ci tengo a ringraziare veramente tutti i docenti e le docenti degli istituti comprensivi che abbiamo visitato e che abbiamo ascoltato, perché sono tutti molto attenti e pronti nella giornata di oggi a festeggiare insieme ai bambini e ai ragazzi, quindi veramente importante questo momento di crescita, di comunità, di socialità e di inclusione. Quindi grazie davvero da parte dello staff di Dedicato a tutti i docenti, agli educatori e al personale scolastico che si dedica e che si è occupato alla creazione di questi momenti. Grazie. Bene, ora vi lanciamo anche un appuntamento sempre inerente alla nostra giornata ed è proprio la festa della lingua madre organizzata dal Comitato Genitori dell'Istituto Comprensivo 15 di Bologna alla Casa di Quartiere Croce Coperta, sabato pomeriggio il 24 febbraio dalle 15 alle 20. Ci sarà questa festa che coinvolgerà appunto diverse etnie, diverse regioni italiane. Ci saranno veramente balli, canti, momenti di intrattenimento, banchetti tematici e anche assaggi di cibo dal mondo. E noi ci risentiamo la settimana prossima, sempre mercoledì alle 13 sulle frequenze di Radio Città Fujiko con Dedicato. Grazie davvero a tutti di aver partecipato a questa puntata sulla giornata della lingua madre. Ci salutiamo con We Are the World, brano sempre attuale. E noi siamo il mondo effettivamente, ma soprattutto non dimentichiamoci di restare umani. Ciao!